macchine, ecco. Non rispettare la natura e inquinare. C'è molta gente che se ne frega. Addirittura ho visto uno che stava scaricando la mondezza in un fiume, l'hanno ripreso le telecamere su internet, c'era il filmato, che scaricava con ribaltabile tutta la mondezza dentro al fiume, ma cattasse di roba. Roba, in Nord Italia. E allora, non mi ricordo che città era, però l'hanno filmato, non lo so chi l'abbia filmato, poi l'hanno fatto il filmato. Allucinante. E vabbè, questa gente, ma non so quelle nuove tecnologie già, la fisica, vabbè. Io l'altro giorno parlavo con un vicino urbano che abita qua vicino a casa, appunto stavo ponendo il problema di questi, della solcizia eccetera, che la via è sporca, i cassonetti insomma sono sempre pieni. Mi stavo dicendo, e non ti preoccupare che già arriviamo a quello che dobbiamo arrivare a Sassari. Sembra che 2 mesi fa hanno fatto circa 400 multe, tutte con telecamere, con i droni, tutto. Stanno criticando un bel di questa gente. Sì, qualche gente che la porterà fuori orario, perché poi in realtà tu la spazzatura la puoi buttare anche in un altro quartiere, non è localizzata la cosa, capito? Quindi mentre a Cagliari ad esempio ci sono quei cassonetti micidiali che ti contano la spazzatura, di lì è un altro discorso ad esempio. Però comunque vedi cosa è, quello lì l'hanno trovato nel fiume, pur sapendo è stupido veramente, è stupido. Vuol fare il ladro facendosi subito scoprire, è un cretino veramente. E quindi c'è questa gente, c'è poco da fare. Che rischia una multa enorme per cui ad esempio qua io mi è capitato di avere un materasso della roba di lì, ho messo in macchina, sono andato lì in via Mottello dove c'è il coso, mi hanno detto ma butti di là, c'è il cassonetto quello enorme, ma butti di là, sei tranquillo, e cosa ti costa? No, proprio sono cose allucinanti. Brecco. È così. Voi gente maleducata, c'era da poco, ho visto un'altra macchina, si è fermata fuori strada, ha scaricato 2 secchi di garraggio, li ha messi lì vicino al cassonetto, 2 secchi di plastica, poi ne ha scaricato uno scaldabagno, l'ha appoggiato lì per terra. E vai all'autoparco e li dai, cioè non riesco a capire, vabbè. Sì, ciao, buonasera a tutti, ciao Claudio, ciao Gianfranco e ciao Gianni, c'è qualche altro? No, per il momento no, vai Roberto. Allora, questo cos'è, 14? Sì, sto facendo andare un po' 140, quello solito, che era già un po' di giorni spento, così lo facciamo scaldare un po', dai. Ogni tanto è bene farlo esaminare le radio. Vai Gianfranco. Ciao, ben ascoltato, buona serata. Sì, no, io sto aspettando quello che ogni tanto arriva qua e ne scarica la mondezza solo perché è una strada di campagna, pensa che non ci abiti nessuno. Il giorno che lo pescano qua, quello sì, lo dici sul giornale. Cavolo, sono tutti poliziotti, carabinieri. Hanno detto che si racciappano e lo fanno nuovo, basta una semplice foto e te lo rovinano, guarda, lo stanno proprio aspettando al varco, perché ci sono anche pezzi d'automobile tra l'altro, l'altra volta c'erano delle ruote, dei copertoni, ma quando mai, ma che razza dei personaggi. Vicino a casa già hanno messo la telecamera sul palo, nessuno lo sa, si rampano in una modezza tutte le ore, adesso quanta gente ha pizzicato, io passando col carro non gli dico più nulla, la prima l'ho salvata, glielo ho detto che c'era la telecamera, ha richiuso il cofano e se n'è andata. Poi non ho più avvisato a nessuno, sai quanti ne vedo scaricando fuori orario, buttandoci roba che non devono buttare, già li inquadra bene. Sì, con tutto quello che c'è adesso, a voi già alta definizione, ingrandimenti, la paura, e ritrovano sì. Non lo so se l'orario riescono a beccarli per l'orario, però per quello che buttano sì. No, ma il problema non è, ti ho detto, quello... se tu ad esempio sei da un amico, dici ascolta, non mi di buttare nella mondetta, scende e gliela butti nella plastica, nella carta, in quello che c'è. Se nel pomeriggio alle orari stabilite non succede niente. Il problema è quelli che te ne vengono con queste buste enormi, che non è carta, non è plastica, è carraggio, come diceva Claudio, tutta questa roba qua. Allora che la pizzichi, che sono da pizzicare questi personaggi. Quelli che usano le buste vere, c'è tutta gente che apre il cane di intorno in campagna, ci buttano tutto mischiato, di tutti i tipi, ferro, di tutto e di più, e ce la buttano con quelle sacchi in edica, che non si possono manco più usare. E già le pizzicheggia di tutti, prima o poi, tanto 500 milioni di multa sono. E ma infatti siamo con le buste perché non ci vuole niente, già capito, per quello. No, già abbiamo i cassonetti vicino. Allora a me più della mondetta, a me quelli che li stiamo tentando, quelli della cacca, sta diventando la zona nostra. Due li abbiamo pizzicati e attentati forte. C'era la telecamera e non se ne è potuto, non è la mia la telecamera, di un'altra persona, ha controllato tutto e non se ne poteva negare. Cosa stai dicendo? A tale ora alle 10 del mattino abbiamo guardato le immagini, insomma lui ce l'ha sul cellulare, è tornato indietro con le immagini, eccolo qua il signore, cacca di avermi attentato. E un'altra volta un'altra ragazza. Adesso ne stiamo tentando un altro, ogni giorno troviamo la cagata noi. Perché gente in civile, un attimo, perché gente in civile, roba, perché vabbè, il mio cane la fa solo nell'erba quasi sempre. Se succede, dove se succede che la fa nel marciapiede, io prendo la raccolgo con le bustine, non c'è problema. Oh via, avanti break. Ciao, ciao, buonasera anche a te, ben ascoltato. Domani mattina, Robè, prima che apri, prendo Filippo e ti piscio tutta la porta nuova che hai fatto. E la salita è giù sul cane Marcello, ha fatto questa pisciata, non alla porta, nel muro. Ce l'aveva l'operaio, cacca ogni pisciata, ha detto vai, hai portato a casa tua la pisciata. Mamma mia, la stessa è come quello di Gianni, solo nell'erba, poi io vado sempre qua a casa mia praticamente. C'è il giardino grande, quindi lo fa tutto qua. Nel marciapiede, diciamo, non è mai successo. Qui si dovrebbero attrezzarsi perché purtroppo bisogna essere attrezzati. Siete picchi che non sono cacchi tuoi. Avanti Gianfra, per che ho l'arrugginito da muro, scambio. Ciao arrugginito da muro, ben ascoltato, buona serata. Sì, comunque se vuoi io ti posso fornire un pochettino di gatti, che quella del gatto è micidiale, soprattutto quando sono grassi come quelli che ci sono qua, quindi sembra collante, tipo cemento, per carità, e non esci, proprio una cosa terribile. Qua noi ci abbiamo già la differenziata, non so se poi se in altri quartieri c'è lo stesso, quindi vengono ogni tanto, aprono anche le buste per controllare se tutto è in regola. Tu fidati che io non lo sapevo, ma una volta ci hanno detto cosa noi per il vetro, no, perché buttavamo le bottiglie col tappo, cioè il tappo è d'alluminio, credo di latta, quello che è. Quindi ci hanno detto cosa? Hanno detto guardate che non lo potete buttare, dovete togliere il tappo e possibilmente la valla. No, questo c'era sfuggito. Comunque non si preoccupi, anche perché è una persona gentilissima quello che viene. E le aprono, quindi periodicamente nella differenziata uno può aprire la mudetta, non c'è un bel lavoro, però la apre, controlla e se poi uno insiste ovviamente devono mettere delle multe salate. Però devo dire che noi ci troviamo bene, quindi se vengono sotto casa, la prendono, la ritirano, c'è un calendario ben preciso, quindi meglio di così. E questo solo lo stanno facendo a Cagliari perché hanno i cassonetti elettronici anche, che in base a quello che butti ti fanno pagare. Tutto lì. Ti prendi Gianni? Sì, i tappi di latta vanno buttati con la plastica, io lo sapevo. Però hanno fatto osservazione anche un signore che ha buttato le bottiglie con l'etichetta attaccata. Gli hanno detto che l'etichetta va staccata e la bottiglia l'ha fatta bene prima di buttare. Quello mi sembra strano perché prova a staccare. cercare un'etichetta da una bottiglia, che ne so, di pomodori, eccetera, poi me ne danno la risposta che dice queste cose. Sì, ma infatti sono incollati in un modo tale che si strappano, si fanno. E questa signora me lo stava dicendo che le hanno fatto osservazione, ma noi ce la facciamo lo stesso, la differenziata la facciamo con i cassonetti grandi, perché siamo palazzi grossi e quindi hanno messo i cassonetti per quello, la zona nostra non si possono mettere quelle differenziate, che altro deve ributi. No, fanno, mettono i cassonetti, però se uno è civile lo divide lo stesso la roba, non è che butta tutto così come gli viene. Anche da te Claudio è così, Claudio 1. Claudio 1 io? Sì, fate la differenziata, nel senso che ci avete i giorni, la differenziata sarebbe quella, sì, lo metti nella plastica, da noi lo metti nel vetro, però ci sono i giorni durante la settimana in cui puoi fare questo lavoro, perché passa appositamente l'autocarro per prendere il vetro oppure per prendere carta. Ti danno il comune, qua la circoscrizione ci dà il coso, no? Il programma per tutto l'anno, e tu sai che ad esempio il lunedì c'è la carta, il martedì c'è la plastica, il venerdì c'è il vetro, e poi c'è anche il coso, il secco in cui puoi mettere pezzi di ferro, quella roba lì che non ti serve. Quindi non so se anche da voi ci abbiate i giorni oppure se sia solo ad orario. No, non sono orario. No, qua non ce n'è orario, perché è un bel grande Gianfranco, capito? Qua tu immaginati in via La Malfa ci sono quattro coppie di cassonetti, a iniziare dall'edicola sino a via Melis, che forse anche di più, perché quattro, allora c'è il verde, il giallo, il bianco e poi ce n'è un altro, quindi c'è il vetro, e quattro dell'umido ce ne sono, capito? Però non abbiamo orari, possiamo mettere quando vogliamo, tutti i santi giorni svuotano, ce ne sono quattro più tre dell'umido dall'edicola, quattro più tre dell'umido 20 metri più avanti, quindi dove sono io, 4 più 3 dell'umido all'angolo con via Melis, 4 più 3 dell'umido all'angolo con via Carbonazzi, capito? Proprio no, ma noi per quello non ci possiamo lamentare, io lo faccio, non faccio le buste che ce le ho tutte perché me le danno, e faccio l'umido da una parte, il vetro da una parte, la plastica da una parte, capito? E poi scendo tutto assieme e lo butto nei cassonetti che la devo buttare, capito? Però tutti i santi giorni, non ne abbiamo di... a qualsiasi ora poi, tra l'altro. Io di solito scendo quando porto il cane, dopo che porto il cane lo porto giù. Ma a volte mi capita che magari sta piovendo e non devo portare il cane, eccetera. La mattina, prima che passi il cassonetto, il camion che passa verso le 7, la porto giù. No, noi abbiamo l'orario. Non lo facciamo buttare prima dell'una, dall'una mi pare che sia sino alle 6 di mattina, una cosa del genere. Fino alle 24, buonasera, scusate. Ciao Mario, mi dice il tecnico, sino alle 24, vabbè, io non so se ci sia l'orario, ma comunque non abbiamo mai avuto problemi, vedo che siamo abbastanza ordinati in questa zona. Vabbè. Ciao Mario, buonasera. L'orario, scusate, avete parlato in 3 o 4, avete parlato, l'orario è sempre a tutti, dalle 13 fino alle 24, per il momento. Claudio, anche per voi c'è l'orario, non è che puoi buttare tutte le ore, perché ci sono i vigili in borghese e stanno controllando tutto, occhio, perché cassonetti ci sono e c'è bisogno di rispettare l'orario, perché ne stanno beccando parecchi. Ok, continuate, scusate, di Claudio. Scusa, innanzitutto ciao Marino, se mi ascolti, ben ascoltato. Un'informazione, ma uno ad esempio che so, a Canica e va al latte dolce a buttare la spazzatura rigorosamente nell'orario e rispettando tutte le regole, lo può fare se di lì di passaggio magari mette la plastica nella plastica, cioè come... cioè lo può fare anche se non è a Canica, ecco. No, non lo può fare, lo deve confondere nella zona sua. Per esempio io sono ottava e non lo fare a ottava, quindi qua c'è porta a porta e se ne beccano alla feroce, per esempio sono di verbale, quindi controllo tutta la busta, la controllata, se c'è qualcosa proprio sgarrato, proprio odio, c'è flasche, c'è vetro, altre cose, c'è ultra e aumenta sempre, capito? I marancini, no, i marancini l'hanno controllato la sera l'altro giorno, ho detto lì se era dove abita, e io abito a Sant'Orsola, e come sta buttando qua la mordezza di Abonoro? Perché gli ha detto, non so se fosse una scuola, lavoro da una signora, mi ha detto di buttare la mordezza, la sto buttando. Esatto, hai sbagliato, è come le badanze, io le becco la mattina presto, io ormai non le dico nulla perché non tocca a me a dire nulla. Le badanze si credono le padrone di tutti, prendo una busta da casa di loro e la butto dove fanno il lavoro, capito? Ma ne hanno beccato allora abbastanza, ne hanno beccato abbastanza. Ok, continuate, scusate, riprendi Gianni. Adesso c'è la telecamera, non so quante ne stanno beccando. Di primi io esatto, uno gli ho fatto chiudere il cofano, ho detto chiudi il cofano che c'è la telecamera che ti vuole a quest'ora, ti vuole la multa 500 euro. Le telecamere piano piano vanno piazzate dappertutto, sono quasi pronte, stanno piano piano piazzando, capito? E poi sono quelle telecamere che proprio la tecnologia, come ha detto Gianfranco, abbastanza proprio ultima, l'ultima generazione. Ok, scusate che sto facendo cosa, riprendi Gianni, dai. Ciao Marino, buon ascolto allora. E fra poco vado anche io che sta a pescare le note. Claudio, ma tu sei generalmente inabile la mondetta, la ti dà nono piano direttamente nel cassonetto, chi ti vede a te, cacchio? Ehi, prima facevo così, però adesso sono al secondo piano, roba, capito, quindi non lo posso fare più. Dimmi Maria. Stavo dicendo, ma è tua figlia la flasca dove la getta nel cassonetto? No, lui fa tutto in via Roma, che poi non c'è in via Roma, è all'angolo con dove c'è De Lugo, che via è quella. Lì loro la fanno la differenziata. È sbagliato, perché per esempio il giorno della plastica, per esempio se dei intelligenti la plastica, poi magari il giorno che passo io l'aperto io, il giorno della plastica, e noi facciamo il giorno della plastica dell'attività, noi passiamo il lunedì, perché fra il corso cioè è un passaggio obbligatorio, il lunedì, mercoledì, il venerdì e il sabato, plastica attività, per il bar, proprio le lattine, la lattina del caffè grande, le ceste, tutta la roba della plastica. Basta lasciarla fuori dove c'è il negozio, sul palo della luce, con il suo marciapiede, e noi passiamo su tutti e quattro i giorni, perché noi a Roma facciamo i locali, qualche locale e anche alberti, capito? I locali di Tessera li facciamo noi, per esempio. Ed è attaccata a Mario Alberti, 20 metri più giù, infatti va sempre lì a comprare tutta la roba, è proprio lì, non ce glielo dico, perché l'altra volta stava piovendo e ho dovuto fare, sento bagnata, a volte quando vado a prenderla io invece me la metto in macchina, la butto alla plastica e la butto da me dove c'è il cassonetto la plastica, però sono solo cose di plastica vere e proprie, capito? Loro sono molto attenti a queste cose, mentre invece il coso del caffè eccetera, quello dell'umido, insomma già sono ben organizzati, ma comunque adesso glielo dico, dopo queste date così se magari il tempo brutto ecco lasciala lì che già possono prenderla. E davanti al coso all'ingresso, ho visto, proprio sul marciapiede la lascia lui, il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, non c'è problema. Io mi stavo fermando, sono già fuori, c'avevo la macchina dietro, ci siamo fermati col cane, ho capito, tanto non cambia nulla, quindi io facciamo i bar, i locali che ci sono dietro, quelli dell'anno, quelle pizzerie, quelle via, e poi facciamo andare alberti anche, noi il caffè sette non stava a mettere nulla, e poi saliamo alla zona di sopra. Benissimo, riprendi Claudio e rimango ascolto, scusate se sto sempre prolungando. Sì, Amari, grazie, gliel'ho già detto. Così, sì, è proprio lì attaccata Mario Alberti. Ok, dai, faccio girare il cambio per Claudio Di Muro, cioè, poi vai per Roberto Quadrato, Claudio, avanti. Sì, non ti ho salutato prima Claudio, comunque ben sentito. No, vabbè, con la spazzatura piano piano già stanno castagnando forte. Però ripeto, a me quello che mi dà più fastidio di tutti, a parte quelli che prendono un armadio, ce lo buttano di lì, smontano un mobile a casa, prendono il mobile e lo mettono in mezzo strada, allo scaldabagno, quando basta telefonare, fare la prenotazione e ti dicono vengo in un paio di giorni e vendono, ti danno un numero di matricola, glielo metti fuori, a me mi è capitato per un materasso o qualcosa del genere. C'è tale giorno, ti dicono che vendono, tu il giorno la sera prima prima, la notte prima, tanto passa la mattina presto, glielo prendi e glielo metti lì e non rischi multe, perché ho visto un bel di gente prende e butta tutto da noi, davanti a noi ne lasciano di tutti i colori e di tutto di più. E però la cosa più che mi dà più fastidio è gli escrementi degli animali, quello è proprio una cosa che io odio, che ha capito del cane, però pulisci. L'altro giorno una ragazzina che passa 10.000 volte e ha sempre pulito, l'ho vista, ha fatto finta di pulire, torna dopo, cacca, c'era la cacca del cane, ha fatto la finta di raccogliere e l'ha lasciata lì, infatti la sto tentando di nuovo. Vabbè, scusate nuovamente, vabbè, io sono 10 anni al centro storico, io sono del parco locale, sono 10 anni, quando passo io la mattina a presto è pieno di gente con i cani, vedono a me e cinchino, fanno finta di raccogliere, mi giro e sono scappati, capito, è pieno, se non ci sono controlli non c'è nulla da fare, so che il comune di soldi non ne ha, non ci sono soldi in cassa, dunque per pagare il personale straordinario niente, zero, dunque quando devo in terra peggio per loro, poi lo prende la faccia vuole fregata, capito? E c'è anche un vigile in pensione, ce lo sto tentando nuovamente, le faccio le voci come un'altra volta, il primo è lui che lo prende il cazzo, che fa sporcare, avevamo le buste della plastica al corso, è passato col cane suo, ha pisciato e se n'è andato, per dopo me lo mangiavo, ho capito, e si è poi incazzato, ho detto adesso chiamo il direttore, vai chiama il direttore, gli ho detto, ma chiama il direttore, mi tira sulla scuola, vai, è un miserabile, questo vigile urbano in pensione, figurati, e dopo per incomodare c'è il numero verde, si chiama tre pezzi a volta, passano, c'è insomma i colleghi, passano e se la ritirano, ok, se dopo c'è quattro pezzi, poi mette in mezzo e la ritirano lo stesso, non guardano un pezzo di più, capito? Ok, va bene, prendi, scusate, lo volete. E a ciao Maria, beh, senti, tanti a te non ti avevo salutato. Ok, io direi di fare prendere a Gianfranco che passerà il mic a Gianni Doppio Rum. Avanti a te Gianfranco. Sì, sì, anch'io ne approfitto perché mi hanno chiamato e devo fare una cosa, magari ci sentiamo dopo. Mi ha fatto piacere sentire Marino, che è una vita che non lo sento, ma soprattutto non lo vedo, non ci incontriamo più da quando evidentemente ha cambiato zona. Va bene, ciao Marino, quindi, ben ascoltato ancora. Ciao a tutti quanti, ci sentiamo più tardi. Riprendi poi, mi sono già dimenticato che dovrò riprendere, mannaggia. Claudio, pensaci tu, dai. Dai, riprendo io, veramente, Mike. Ci sentiamo, Gianfranco, riprendi Claudio. Claudio Muro, su a te. Finito, buonasera, non ti ho manco salutato, non avrete dato il tempo. E a proposito di cane, stava bevendo. E voi non ci può andare, quindi sono andato a pulire del muso al vicinetto. Avanti a chi tocca, eh? Claudio di Muro, su, davanti a te. Mamma mia. È pesante di Claudio. Mi sembra un po' meno di segnale, ti sei abbassato di segnale rispetto a ieri. Sì, l'altro forse è un pochettino più forte, comunque ti ascolto bene, buona, ottima. Niente da dire. C'è qualcuno che vuole entrare probabilmente. Avanti su 10 che vuole entrare. Ho sentito qualcuno sotto. Ok, chi tocca Gianni Doppio Rum? Non lo so, forse Claudio non mi ascolta, non salutate, non mi ha risposto. Non mi ha ascoltato Claudio. Santiago 9, sì, qua. Sì, Santiago 9. Già va bene. Andrà bene. Stazionari come si è messo. Speriamo che questa qua ti duri a lungo, là. L'altro che diventa sono vicinati, magari ha preso una raffica troppo forte o ce l'ha fatta resistere. Gabba, va bene, ok. Vabbè, lavori vanno fatti, c'è da fare. Quando si rompono le antenne bisogna rimettere avanti Gianfranco, poi fatemi memoria, c'è entrato qualche altro perché mi sono allontanato un attimo, avanti Gianfranco. No, Gianfranco si è allontanato, come si chiama? Claudio di Muro, se l'avevi trovato quello filo, ma tu stai parlando del piantone dove attacca il tubo centrale, diciamo, la parte telescopica, quello lì si è rotto. Ok, facciamo riprendere a Claudio, avanti a te Claudio. Sì, vabbè, ecco ci vuoi fare, purtroppo ripeto, le antenne soprattutto corre così, infatti così, quando c'è molto vento possono avere dei problemi, evidentemente il pezzo non era al top, vabbè, comunque ne hai piazzato un'altra, va bene lo stesso, già ce n'è antenne in vendita, a voglia, vai Doppio Rum. Adesso c'è questa Blizzard che mi sta venendo l'obbligo di comprarmela, a tenermela di scorta. 135 euro costa ed è simile alla Manto. Ma simile però, o uguale alla Manto? Simile è della Sidio questa qua, la Manto fa della Sigma mi pare. No, ma come alluminio, come è fatta, buona? Sì, anche la 4 l'ho 7, sono tutti e due dall'asilo, sono antenne, le ultime uscite, stavo leggendo dei furo, sono abbastanza soddisfatti che la piazzata. Adesso vi documenterò un po' e vediamo. Comunque c'è qualcuno, uno scritto che sta prendendo ancora Levantova 1, Levantova 5 e Levantova 2. Guarda, io mi ricordo, io l'ho comprata vicino a Mantova, in provincia di Mantova. C'era un negozio appunto, come può essere tipo Fugiaro, che vendeva le Mantova. E me l'aveva portata giù un camionista, senza fare nomi, un carissimo amico, che doveva consegnare della merce lì, e li ha viste e ne ha portato giù tre. E l'avevo comprato lì, capito? E mi ha detto che lui ce l'aveva sempre la Mantova, quindi ci sono dei negozi male in provincia di Mantova, Reggio Emilia, capito? Come cose lì, sicuramente c'è. Comunque già mi faccio all'inizio, perché lui è camionista e a volte porta un sacco di materiale in questo negozio dalla Sardegna, capito? E quindi vediamo, che ti faccio sapere. Se questo è buono, 135 euro, il prezzo insomma è quello. E quello lì, vabbè, non mi interessa il materiale, perché dove sono io il vento qua non spetta, porta via direttamente. E quindi dovendo comprare un'antenna di scorta, io ne ho anche un'altra di Mantova di scorta, quindi non è un problema. Oltre a quella tua, capite? Ne ho anche un'altra. Ieri Antonello Pompugno ha dato un indirizzo che questo c'ha la Mantova 1, la Mantova 5 e la Mantova Turbo, quello le vende solo associazioni di volontariato, questi come si chiamano, tipo Croce Rossa, quelle cose lì, protezione civile, solo a quelli. E le vende, c'è scritto espressamente, mi ha dato anche il prezzo, adesso non mi ricordo, ieri mi ha dato il sito, Antonello c'ha proprio il nome di questo negozio, non so per quale motivo le vende solo a queste associazioni qua e non a privati, per cui magari uno deve trovare uno che lavori in queste cose qua, farsela ordinare da loro e poi prenderla. No, per me non è un problema, ti ripeto, posso farla prendere anche la protezione civile direttamente, non è un problema. Però, come stavo dicendo, non lo so, sì, io l'avevo comprata lì, però non mi trovo più lo scontrino con il coso manuale, eccetera, sicuramente è mansarda nella scatola. Devo controllare, perché c'è un negozietto tipo Fugiaro in provincia di Mantova che vende le antenne. Io avevo comprato anche l'antenna VU, allora, figurati. Perciò se lo trovo ve lo passo, perché sicuramente quello lì è attrezzatura ne ha un bel. Avanti Muros, sì, una Cartman, sì. Una 030, molto bella, sì. Solo devo andare a comprare il cavo di alimentazione perché è corto, come stavo dicendo a Gianfranco prima, se domani mi organizzo lo compro, così domani sera la provo. E il connettore BNC, perché l'attacco non è a PL, è il connettore BNC, ma già ne ho dei BNC, non c'è problema, c'ho il carretto anche già pronto, BNC PL, quindi la proveremo anche quella, dai, avanti Roberto. No, ma c'è la Mantova, cosa l'aveva presa in ritardino, nel catalogo della Sigma ce n'è una che sostituisce la Turbo, adesso non mi ricordo, che più o meno molto simile, l'hanno cambiato qualche fesseria per questioni commerciali e boh, ma la fanno nuova la Mantova. E ma dice che non è più come l'altra, non è più performante come l'altra. La 498, ce l'ha anche Marco, mi pare, Marco Scurci. Guarda, io l'ho vista dal vero, ti posso dire, almeno a occhio non è che ci sia molta differenza tra una e l'altra, poi sono 5 ottavi, non è che può cambiare più di niente, quando stiamo rispettando quelle misure fisiche, non è che puoi avere grandi guadagni o grandi attenuazioni rispetto a un'altra antenna di pari dimensioni. Loro addirittura la vantano di più che migliorata rispetto alla Mantova Turbo, poi se è solo pubblicità questo non lo so, però loro l'hanno detto che è la versione migliorata della Mantova Turbo, i costruttori, gli ingegneri che ne parlano, c'ha una radiazione leggermente migliore sulle lunghe distanze, però possono essere balle, effettivamente non lo so. Efficiente radiale in alluminio. Uguale identica, cambia qualche fesseria, claro, adesso non mi ricordo, se cerchi su internet e cerchi sul sito della Sigma, c'è questa antenna qua, adesso non mi ricordo come si chiama, è uguale, costa un po' di più della mantova vecchia, diciamo. So che Sirio, la 498 della Sirio forse. No, no, le prendo io le antenne con i radiali in alluminio. No, ma poi a me non mi serve, io c'è una campagna, ce l'ho qua, ce ne ho una di scorta anche, ma ti ripeto, io ho amici lì in provincia di Mantova che viaggiano e fanno, quindi se mi serve già me la provano, no, non c'è problema. E io voglio se me la trovo. Però sempre Mantova 1, massimo Mantova 5, radiali in fibra, noi vogliono radiali in alluminio, Roberto. Ho già avuto l'esperienza della, forse sono stato uno dei primi a Sassari che ha montato la Mantova Turbo, quindi no, assolutamente, è un'antenna che non mi interessa, un'antenna che a me non piace, è fatta male, no? Poi in un anno bisogna fare di tutti i radiali a giù, di tutti i guardi, che mai un'antenna. Non mi piace, poi ognuno può dire quello che vuole, io rispetto le altre, a me non mi piace, a me mi interessa la Mantova 1 e la Mantova 5, io ho la 1 e la 5, adesso sono, qua c'ho la 1, l'altra un piantone la 5, l'altra c'è in campagna la 1 lo stesso, quindi no, non mi interessa. Avanti Muros, Gianni al telefono, Gianni, no comunque ti rispondo io, la 9 parata non aveva niente di particolare qua, capito? C'era l'innesto, si era spostata e quindi si è un pochino inclinata, niente di che, l'avevo forzata e rimessa a posto, sempre quella. Ok, no, beh io, a me serve materiale di sostanzioso, vabbè, perché già lo sai che essendo montata in altezza così non posso montare, io per dire avrei messo allora già da tempo, anziché montare le direttive avrei messo già da tempo una verticale 5 bande, ma non mi sono mai fidato proprio per il vento, capito? Per il vento, adesso non mi interessa più, ma l'opzione che avevo allora era quella di montare una 5 bande. Adesso non devo montare più niente, non mi interessa, però non l'ho mai fatto proprio per l'altezza, perché sai, sono antenne molto, molto lunghe, soprattutto in alluminio, così tipo quella che c'è tu, mi hai visto quanto fredda, la tua è bassa bassa. Prova quella lì a mettere al posto dove hai la mantova, vedi cosa arriva di roba. Sì, già lo so, quella lasciamo perdere, infatti per quello che la vuole. A parte vabbè, non è centrata bene, però li vuole messa bene, quelli innesti, hai visto quelle flange che c'ha, vogliono perfettamente allineati, basta un dado stretto di più coso e si go caduta, infatti non la voglio scendere appena c'è qualche giorno, se vieni mi dai pure una mano. Comunque la nuova Mantova si chiama Venom 5 ottavi ed è, c'ha gli stili, c'ha 4 stili piccolini sotto e la carica ce l'ha in basso all'interno, è un'antenna unico, un unico c'è una cosa centrale telescopico e poi ci sono quattro radialini che pensano siano 30 cm di larghezza e c'è una specie di supporto, mi cerca Venom 5 ottavi Sigma, quella lì è quella che sostituisce la Turbo. Ho capito, no vabbè, però no, se parliamo di antenne verticali ti ripeto, io a me la 1 e la 5, la Turbo ho già avuto, l'ho già avuta, no, non mi interessa, ottima antenna, funziona benissimo, a me non mi interessa però, assolutamente, non è un'antenna che a me piace, tutto qua. Vediamo se è rientrato Gianni, se non riprendi tu cover. Gianni, Gianni adesso al telefono, riprendi qua. Il PMR, vabbè io PMR ne faccio poco. Prima usavo la 510 della Diamond, adesso ho tolto anche quella, quindi sto usando una di quelle piccoline, una X30, di quelle piccoline che proprio sarà un paio di metri insomma di tubo giusto per avere un segnale maggiore, ma PMR non è che ne faccia molti, qualche volta così entro a salutare se c'è gente, ma non è un, non è una frequenza che mi ha sempre, mi interessa insomma in particolare. Ehi, hai trovato molto lontano la casa tua, lo stilo centrale. Il telefono, scusate, sono rientrato. Il piantone è tra... No, ma se c'è qualcuno che ha una stampante 3D te lo fa fare, si può costruire. Ormai con questo cacchio di stampante ti fanno tutto. Perché sei spaccato, sei lesionato, ma anche non ci metti delle fascette, qualcosa ha fatto bene, se no la sua bisino, se no perdere tempo. Cioè, lasciamo un attimo di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, che vuole entrare, se no il mic a Claudio. Io adesso già entra qualcuno da farci le chiacchiere. Io vi saluto ragazzi, mi allontano dalla radio perché devo andare ai fornelli, vi ascolto volentieri, nel caso ogni tanto entro a fare il capolino, vai. Ok, per il momento mi devo allontanare, quindi saluto tutti circolarmente, avanti Murs. Anche io un qualche minuto vado anche io via, devo fare cosa, ok, va. Claudio, buon proseguo, dai, se coincide, non lo so, difficile che dopo riattacchi, però eventualmente vi ascolto con la radiolina piccolina quando sono nell'altra stanza. Ok, rinnovate Claudio Muros. Quando vuoi, non c'è problema, non ti preoccupare. Sì, una cosa, ieri era diverso, l'altro sommer capo ieri avevo rispetto a questo. Guarda, non è che abbiamo memorizzato, le prove si fanno nel momento, nel senso senti una adesso e poi commuti l'altra. A memoria quell'altro era più forte, sia di segnale che come modulazione, però come naturaletta di modulazione mi piace più questo, se devo essere sincero, però andando a memoria, perché vorrei sentirli uno dietro l'altro nell'immediato, perché molte volte puoi avere l'orecchio ari concentrato per altre cose. Questo secondo me se riesce a alzare appena appena un peluzzino il livello microfonico è anche meglio. Sì, se è roba veloce fallo, ti aspetto, dai. Vai, frate, il segnale è più o meno uguale, non è cambiato, ieri eri un po' più forte, sei 9 più 15 qua, la radio è molto più forte però è un po' più nasina, qua le tonalità sono più chiuse, diciamo l'altra era più naturale come modulazione, qua c'è un po' caricato di acuti e di medi. No, ma che gain, aspetta, dovrei dirti se sta distorcendo un attimino. Ehi, allora il livello microfonico già va bene, sei entro i limiti, voglio sentire i tuni, magari se riesci a migliorarli, perché c'è troppo carico di frequenze medie. È un po' chiara, niente da dire, è perfetta per certi versi, però si può migliorare, è un po' citofonica, nel senso c'è cariche di tonalità medie, se riesci mai a attenuarle col controllo dei tuni, prova un po', come ce l'hai i tuni adesso? Mettili a metà, vabbè se cambia qualcosa, metti, cioè c'è tre posizioni, uno tutto a sinistra, 10 tutto a destra, centrale metti, dai. No, mi sa che è peggiorato, il tono mettilo tutto al massimo per curiosità, no, ritorna a zero, chiudilo tutto. Togli un attimino l'alfa lima, senza niente, volevo dire una cosa. Allora, pulito c'hai 9 più 10 con i picchi positivi, attaccato c'hai 9 più 15 più c'hai i picchi positivi. Differenza grossa di radio non te ne mangiava, no, il dubbio mio che ti mangiasse le tonalità con l'apparecchio attaccato, con la stufetta invece non cambia quasi niente, è percettibile. Fai una cosa, rimettiti, attacca l'alfa lima e poi prova a parlare. Così va meglio. Aspetta un attimino chi stava chiamando, abbassa un po' il mic gain per curiosità, portalo a 3, solo per vedere, ma è un po' più naturale la voce così, perché se alzi troppo te la dà troppo, sembra troppo barattolosa, nel senso che sembri una stanza grande, aperta, vuota. Ok, c'è qualcuno che chiama, avanti, che vuole entrare. Ciao, vabbè, no, volevo dire che così era meglio, solo quello volevo dire. Come, con questa posizione così? No, precedente a quello, perlomeno qui da me, quando poi ha abbassato il microfono, l'ha abbassato, però il passaggio precedente era più forte come radio qui da me. Comunque va benissimo, ciao Claudio, va benissimo Claudio, così non c'è problema. C'è anche poco QRM, metti arrivando Santiago 7, metti arrivando circa, e altri modulati arrivi anche a 7 pieno, e la radio per me è buona, io ti ascolto bene, a differenza magari di altre volte che ti sento male, oggi invece ti sento molto bene. Avanti, vabbè. Sì, no, stavo solo facendo la prova. Adesso il mic gain ce l'hai a 3, ripeto, mi confermi? Ciao Giulio, mi hai sentito comunque. Claudio, mi confermi a 3 il mic gain? Allora, devi fare un passaggio senza mollare il mic, mi dici questa è la posizione 3 del microfono, continuando a parlare me lo porti a 6, noto, così verifico se si cambia qualcosa. Orientato, Roberto. Sì, abbassalo un peluzzino il mic gain, anziché a 6 metterlo a 5. 4 per andare. Abbassa un peluzzino ancora. Allora, lascialo così, tu ne chiusi e il mic gain è 4. 4, va bene. Sono sicuro che quel microfono, se tu li metti, c'è stata la modifica, togliendo quella piattina rotonda, anello circolare, quella cosa che c'è dietro, dove c'è la capsula, e mettendogli un po' di ovatta, sicuramente quelle tonalità presenti, troppo pronunciate, rimeditele tu, però la radio è chiara e pulita. Avanti Claudio, gli do il mic perché io adesso vado via. Avanti Claudio che passo il microfono a Giulio. Se non mi chiami a me. Ehi, ti saluto anche io, così chiudo anche io la conversazione. Buon proseguo di serata, anche io blocco. Ciao Giulio, ciao Claudio. Cosa stava dicendo qua prima di chiudere Claudio Spavero? Non ho capito. L'ho detto che era rientrato, ma le regolazioni con Claudio Di Muros le avevamo già fatte. E quel microfono mi pare che andasse a 4 con le tonalità chiuse. Avevo detto che segnato, l'hai capito? Quindi tenendola a 4 con i toni a 0 va molto bene, non c'è problema. Va bene, comunque ciao, buon QRT e alle prossime. Se state chiudendo, non c'è problema, il cambio per Giulio, se vuole rimanere ce lo chiudo anch'io. No, ciao, ciao Claudio. No, ciao Claudio Di Muros, no, oggi lo sento molto bene, la verità, una bella radio, anche bella pulita, non c'è problema. No, sono di passaggio in questa stanza, dunque anch'io sto scendendo giù. Ci sentiamo, ciao, ciao Claudio Di Muros, Claudio Di Sassari e ciao Roberto, QRT per me, dai. Ciao, ciao Giulio, anch'io mi sono allontanato a Cornelio, adesso sono tornato, ma chiudo anch'io, dai. Ma lo vado a vedere un po' in TV, non è giornata oggi. Ciao a tutti, buon fine serata, alle prossime, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao, ci sentiamo, lasciale così che vai bene. Sono venuto tardi. nessuno. Ha giurito, boh. Vabbè. Oh, esce a vedere i nodi. E andava bene. Oggi è capitato così lui. Infatti non ho trovato più nessuno a una certa ora.